Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Un conto è la storia della scienza, altra cosa sono storie di scienza, naturalmente ci sono dei rapporti. Buonasera e benvenuti a questa puntata di Mebius, sentiamo insieme i titoli. Dalle frodi scientifiche alle autocensure di Torricelli, passando per il brutto carattere di Galileo, si apre a Varese Storie di Scienza. Una rassegna dedicata alla storia coinvolgente e travagliata del cammino scientifico. Il Parco delle Cinque Terre, natura, agricoltura e presenza umana. Tre ingredienti che i gestori sono riusciti a miscelare con successo. Come si gestisce uno zoo moderno e come si dimostra la sua indubbia utilità? Ne parliamo con il direttore del Bioparco di Roma, dal quale parte un concorso per giovani comunicatori scientifici. L'astro narrante. La Luna nella scienza e nella letteratura italiana. È il nuovo libro di Pietro Greco che parla di un ménage à trois tra scienza, letteratura e filosofia. Come si fa a incrementare l'innovazione nel sud Italia? Bastano gli incentivi o ci sono altre strade da tentare? Si potrebbe provare con un ufficio brevetti. Nasce in Italia un centro di eccellenza nel campo di ricerca delle neuroscienze e già si presenta con risultati di grande rilievo. Allora, ve l'ho detto poco fa, la storia della scienza non è proprio la stessa cosa che parlare di storie di scienza. No, in realtà è vero che le storie stanno dentro la storia, però qui si vuole sottolineare che si presta maggiore attenzione alle vicende umane, ai personaggi, a molti aspetti anche strani, controversi, rocamboleschi contenuti nella ricerca scientifica. A Varese, dal 4 al 7 giugno, c'è un appuntamento dedicato a tutto ciò e noi lo seguiremo. Sul nostro sito www.moebiusonline.eu trovate il programma di questa rassegna. Ora però ve la introduce Maurizio Melis. Forza uguale massa per accelerazione. È una delle formule basilari della meccanica. Della scienza ci vengono insegnati i risultati, ma pochissimo si dice di come questi sono stati raggiunti. È un'opportunità intrinseca alla natura del sapere scientifico, il cui scopo è ricondurre a poche regole semplici la complessità dei fenomeni che vediamo tutto intorno. Un bel vantaggio, ma anche una condanna. È un po' come ridurre l'italiano alla sola grammatica e chi se ne frega di Dante, dell'inferno, dell'amore dantesco per Beatrice. Invece la scienza è fatta da uomini e donne e come per la Divina Commedia alla fine c'è sì la visione della luce, ma è il lungo e travagliato percorso che sta alle sue spalle, segnato dalle esperienze individuali del viaggiatore, a dare un senso a quella luce. Una cosa insomma è la scoperta, tutt'altra è la ricerca, ovvero l'arte di fare scienza. Se la prima è una verità pressoché definitiva, la seconda è il regno dell'incertezza. Che cosa sia la scienza, quindi, ce lo insegnano molto più la sua storia e la biografia dei suoi protagonisti di quanto non facciano i suoi risultati. A partire da Galileo Galilei, di cui Federico Di Trocchio ci ha parlato alcune settimane fa, intervistato da Federico Pedrocchi. Sentiamo come. Io sono fermamente convinto che la scienza è nata alla fine del Cinquecento, perché alla fine del Cinquecento è nato Galilei e c'è molto di toscano, sia di personale sia di geograficamente e culturalmente toscano nella nascita della scienza. E se uno ad esempio confronta Newton con Galilei si rende conto che Newton ha fatto un grande lavoro di risistemazione che Galilei sarebbe stato in grado di fare, ma contemporaneamente capisce molto bene che Newton non aveva alle spalle la forza morale, l'aggressività, l'ironia, la lucidità, che aveva un toscanaccio come Galilei e io azzarderei a dire anche con la sua storia travagliata, con una madre veramente oppressiva. Dalla scienza in salsa toscana alla scienza in salsa leninista. La scienza, si sa, non dovrebbe avere confini nazionali, tuttavia spesso se ne è fatta una questione di ragion di Stato o di identità. Il caso dello scontro tra Galileo e la Chiesa, che per inciso lo stesso Galileo avrebbe forse potuto evitare se non avesse avuto un pessimo carattere e la tendenza a trattare anche i gesuiti, suoi sostenitori, come pigmei mentali, non fu né il primo né l'ultimo. Oltre alle religioni, i regimi dispotici storicamente sono stati tra i più attivi nel cercare di imbrigliare la scienza, di imporre alla scienza verità di tipo non scientifico. Di questo ho parlato qualche tempo fa con Fabio Toscano. Mentre in Unione Sovietica teorie fisiche all'epoca d'avanguardia come la relatività e la meccanica quantistica erano considerate idealiste e quindi contravvenivano ai precetti del materialismo ed erano considerate borghesi, parallelamente nella Germania nazista queste teorie venivano considerate teorie ebraiche. Un bel intruglio, insomma. Ma inevitabilmente, ogni volta che ci ha parlato dell'uomo, così come nel caso della teoria dell'evoluzione, la scienza ha sempre scosso, oltre che le menti, anche le viscere dell'opinione pubblica, riflettendosi poi a sua volta sul lavoro degli scienziati. E si è riversata, con le modalità più improbabili, in tutte le forme di espressione artistica, dalla pittura alla scultura, al cinema, dove la produzione di polpettoni pseudoscientifici ha toccato davvero vette insuperabili. Da Darwin's Reversion, un cortometraggio muto del 1908 in cui esseri umani vengono fatti regredire allo stato di scimmie, fino a Il mostro della Laguna Nera del 1954, che, pensate un po', comincia così. Nel principio Dio creò il cielo e la terra era informe e vuota. Questo è il pianeta Terra appena nato e che andò raffreddandosi via via da una temperatura di 6.000 gradi a una di poche centinaia in 5 miliardi di anni. Il calore, irradiandosi nell'atmosfera, formò le nubi e la pioggia cadde sulla crosta indurita per secoli e secoli. I mari irrequieti crebbero, ma trovarono dei limiti e furono racchiusi. Ed ecco che nei loro caldi recessi comincia il miracolo della vita. In varietà innumerevoli appaiono esseri viventi che mutano e raggiungono la terraferma, lasciando una prova del loro passaggio, della loro lotta per l'esistenza, della loro estinzione. Scienza e visione religiosa, scienza e politica, scienza e problemi caratteriali. Insomma, per citare il grande antropologo James Gould, la scienza non è una macchina obiettiva guidata dalla verità, ma è una quintessenza dell'attività umana, influenzata da passioni, speranze e pregiudizi culturali. Ecco perché conoscerne la storia è indispensabile per comprenderla e forse per progettarne il futuro. Siamo in pieno clima elettorale europeo, ma certamente evitiamo di accennare alla politica, però in Europa, che è un paese che deve costruirsi, sarebbe bene fossero rappresentate in qualche modo le aree naturali protette, i parchi. In Italia ne abbiamo un po', importanti, in tutta Europa ce ne sono tanti. A Franco Bonannini, che dirige quello delle Cinque Terre e che ho incontrato di recente a una convention, ho chiesto come prima cosa se c'è effettivamente la possibilità di fare rete fra i parchi europei e poi abbiamo anche detto altro sulle Cinque Terre. Sentiamo. Noi in questi anni abbiamo appunto lavorato su uno schieramento, diciamo, di rete proprio fatto da parchi, aree marine protette, territori dell'UNESCO, siti comunque che vogliono proporre come primo obiettivo il mantenimento e la qualificazione del territorio. E abbiamo incontrato queste alleanze a livello europeo, delle quali andiamo fieri e che possono essere riproponibili in una chiave, diciamo, di prospettiva, proprio quale sistema di rete da costituire insieme una proposta sia turistica che paesaggistica. Com'è la situazione in generale dal suo punto di vista dei parchi in Italia? So che c'è appunto un'associazione, ma come stiamo andando in questi ultimi anni? Ma io direi che, diciamo, c'è la necessità un po' di, come dire, di avere un confronto, credo, il più possibile aperto su cosa si intende, diciamo, per parco, no? Perché il parco ha una difesa della naturalità che è un'azione importante, però deve costituire anche un momento di promozione socio-economica della comunità, quindi una comunità che si propone sostanzialmente di credere nel mantenimento del territorio, nell'equilibrio del territorio, ha comunque diritto a non vedersi sottratte delle opportunità lavorative. Io credo che si può vivere di ambiente più e meglio di come si vive dall'industria. Credo che questa sia una cosa da ricordare, perché il parco naturale nell'immaginario più diffuso è proprio il luogo di natura pura, completamente libera, e certamente questa è una formula. Però c'è un'altra formula che a volte può sfuggire, anche perché meno frequente, per esempio nei nostri paesi, ed è il parco che ha poi tutta una sua dimensione economica, lavorativa, di coltivazione. Per esempio nel parco vostro, delle Cinque Terre, si fa della coltivazione estremamente interessante, no? Sì, diciamo che quando il territorio è intonso è una miniera e quindi da quella miniera si possono estrapolare tutta una serie di attività. Noi ad esempio, oltre alle colture storiche, abbiamo promosso una linea di biocosmesi, diciamo, abbiamo promosso ad esempio un sistema di qualità della vita per il quale la gente in questo momento ha un altissimo interesse, che è fondato sulle colture biologiche, diciamo, tutta una serie di attività che vanno in quella direzione. Io credo, ecco, che il parco dovrebbe essere un po' il luogo di incontro, l'agorà, la piazza, no? Una piazza delle opportunità dell'ambiente. Ecco, io credo che se noi riusciamo ad addivenire a questo indirizzo, facciamo la fortuna dei parchi, delle popolazioni e salviamo nello stesso tempo anche la naturalità, perché altrimenti poi il rischio è quello che subentrino altre attività più dannose per quanto riguarda il territorio. Infatti sbaglio, o fino a qualche anno fa alle Cinque Terre c'era un problema sociale, sociologico, perché la gente tendeva ad andarsene, invece con operazioni di questo genere voi ricostruite un interesse e un rapporto fra la gente e il territorio. Sì, io sono nato in una delle Cinque Terre, a Rio Maggiore, e ci sono rimasto per 3 decenni e rotti, la gente se n'è andata via, io vedevo gli amici che se ne andavano, che andavano a cercare delle nuove opportunità fuori. Quello che era allora ci appariva il progresso, diciamo, era inarrestabile, insomma. Oggi i ragazzi si fermano lì, hanno le opportunità sul luogo di lavoro, ma soprattutto io vedo che hanno l'orgoglio della propria terra, e questo mi lascia ben sperare che quando passeremo il timone alle nuove generazioni, perché è chiaro che questo contesto viaggia, come dire, molto più in prospettiva di noi, quindi bisogna avere l'umiltà di capire che il nostro passaggio della vita temporanea di ciascuno, diciamo, è un fatto secondario nell'ambito di un territorio, e io sono fiducioso che chi subentrerà avrà questo grado di convinzione. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come ogni volta, a questo punto vi tocca il nostro gioco. Siamo al quiz. Dunque, credo che il nome di Tiger Woods, anche se il golf è uno sport poco praticato in Italia, sia abbastanza noto. Da qualche anno è la star indiscussa fra prati e buche. Tiger Woods detiene anche un record nella velocità che riesce a imprimere alla testa della sua mazza da golf quando colpisce la palla. Naturalmente quando deve far partire uno di quei colpi con i quali si vuole raggiungere la massima distanza. E quindi ecco l'interrogativo: che velocità raggiunge la mazza di Tiger Woods nel momento dell'impatto con la pallina? 3 possibilità. 200 km orari, ci scriverete 200, oppure 150 km orari, ci scriverete 150, oppure infine 300 km orari e ci scriverete 300, dove al solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è L'astro narrante, la luna nella scienza e nella letteratura italiana, di Pietro Greco, edito da Springer, e con l'autore parleremo più avanti in questa puntata. In collaborazione con IBS.it. Il Bioparco di Roma ha indetto un concorso rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni. È un concorso per chi voglia interessarsi di comunicazione scientifica. Bisogna produrre un articolo per giornale o per rivista scientifica, oppure la recensione di un libro o anche un saggio. Sul sito del Bioparco, www.bioparco.it, trovate tutte le indicazioni per partecipare. I lavori devono arrivare entro il 12 di luglio. Attenzione però, il tema su cui lavorare è l'evoluzionismo. E siamo appunto nell'anno darwiniano. Con Fulvio Fraticelli, direttore del Bioparco, ho conversato proprio sui temi che riguardano la comunicazione scientifica relativa a quest'area di ricerca e intervento. Il Bioparco, come buona parte dei giardini zoologici italiani, ha una potenzialità educativa fortissima, sicuramente non sfruttata. Ha una potenzialità educativa perché il pubblico che frequenta queste strutture è un pubblico che generalmente non viene raggiunto dagli altri strumenti di comunicazione sull'ambiente in senso generale, e in particolare sulla conservazione dell'ambiente, perché è un pubblico che è attratto qui dall'aspetto più esteriore degli animali: vuol vedere il pappagallo più colorato, il leone più feroce, il coccodrillo più grande e il serpente più velenoso. Che può sembrare un grosso limite, in realtà è una grandissima ricchezza, perché questo qui è un pubblico che quelle trasmissioni che si interessano di ambiente o quella stampa che si interessa di ambiente non raggiunge assolutamente. E quindi c'è un'opportunità estremamente interessante, un'opportunità che è resa ancora più importante dal fatto che questo probabilmente il pubblico ha il maggior impatto sull'ambiente, perché è un consumatore non critico e quindi è proprio un pubblico da andare a contattare, da andare a coinvolgere. Questa affermazione per cui il pubblico che visita il parco non è per esempio il pubblico di grandi consumatori di documentari ambientali, vi viene fuori da delle indagini, immagino. Ci viene fuori da delle indagini, ormai da una grossa esperienza, visto che sono 11 anni che gestiamo questo posto e conosciamo bene il nostro pubblico, che è un livello culturale medio-basso, ma è viva che sia di un livello culturale medio-basso. E proprio su questo, dicevo, bisogna andare a costruire. Abbiamo cominciato a ragionare cosa costruire, ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà insormontabili, o se non altro estremamente grosse, perché tutti quanti i metodi di comunicazione che vengono utilizzati in altre strutture, che sia la pannellistica ma anche il multimediale, non funzionano assolutamente, è un pubblico che non legge. La pannellistica funziona soltanto se c'è uno slogan, lo slogan viene letto, però poi nello slogan logicamente non si possono trasmettere tutti quanti i concetti che uno vuole trasmettere. Stiamo sperimentando altri strumenti che per adesso ci stanno dando dei risultati buoni, sono degli strumenti quasi ludici. Faccio un esempio banalissimo: noi abbiamo fatto seguire da una studentessa che l'ha adoperato come tesi di laurea l'attenzione dei visitatori nei confronti della nostra pannellistica. L'attenzione maggiore è stata data da una ruota di legno che girata permetteva di vedere sia per gli scimpanzé che per i leoni asiatici o per altre cose la stagionalità nell'alimentazione di questi animali. Era semplicemente il movimento di una ruota di legno, non c'era niente di particolare in questo, però c'era un'attenzione estremamente più alta e le persone che avevano utilizzato questo strumento avevano capito perfettamente qual è la stagionalità di questi animali. Abbiamo fatto un piccolo gioco con degli specchi, mettendo questi specchi vicino a delle immagini di scimpanzé, di facce di scimpanzé che esprimevano delle sensazioni, e spingevamo il pubblico a ripetere queste immagini allo specchio. Funziona in maniera perfetta, la gente sta lì e cerca di capire il perché gli scimpanzé abbiano delle espressioni facciali così vicine alle nostre, e da lì si può cominciare a parlare di questa differenza minima dal punto di vista genetico che c'è tra noi e gli scimpanzé. Dunque state sperimentando strumenti mass mediatici specifici, benissimo. Qui però avete anche gli animali veri. In che misura per questo pubblico l'incontro effettivamente con l'animale è vero lì davanti ha una sua rilevanza? Come si configura? È fondamentale perché l'animale vero ha una imprevedibilità che nessuna rappresentazione, anche il filmato più sofisticato, potrà mai dare. L'elefante andrà dove vorrà andare e poi è tridimensionale. E poi emette dei rumori quando uno nemmeno se l'aspetta, e poi puzza o odora secondo le percezioni, e questo crea un'attenzione da parte del pubblico completamente diversa rispetto a qualsiasi rappresentazione che uno gli voglia dare. Posso parlare di esperienze dirette: noi abbiamo fatto e continuiamo a fare degli a tu per tu con i rettili, dove attiriamo il pubblico con animali, dico una cosa bruttissima, quasi da circo: un grosso pitone tenuto in mano da un nostro guardiano, un'iguana che se ne sta sulla spalla di un altro nostro guardiano. La gente arriva a frotte per capire queste cose, per cercare di vedere da vicino uno di questi serpenti, e poi lì si riesce a parlare, si riesce a costruire comunicazione, gli si può spiegare la non pericolosità delle vipere, le gente che nascono sui serpenti, di non uccidere questi animali se per caso uno se li trova davanti, gli si può parlare di questa estinzione di massa che sta avvenendo negli anfibi, con un rospo in mano dove tutti quanti cercano di tirarsi indietro dicendo mi schizzerà il veleno addosso, uno cerca di spiegargli che non è vero. Si può parlare di questo fungo che sta proprio grazie, purtroppo per colpa della globalizzazione, sta facendo estinguere centinaia e centinaia di specie di anfibi tutto quanto il mondo? C'è una domanda inevitabile, sono anni, tanti anni che ormai si discute con diverse opinioni sulla presenza di zoo e sul fatto che indubbiamente gli animali vivono in condizioni che non sono naturali. Abbiamo però anche capito che invece negli zoo per molti animali si svolge una funzione di conservazione fondamentale, però insomma ecco su questo tema. Magari si arrivasse al momento in cui non servono più gli zoo, non servono né da un punto di vista educativo, ma non servono nemmeno per dare ospitalità a tutti quanti quegli animali che per una lunga serie di storie sono costretti a vivere in questi spazi. Gli animali che vivono ad esempio al bioparco o sono eredità di vecchie ipotesi gestionali, che prevedevano ad esempio l'acquisto di animali da commercianti e che sono talmente condizionati che è impensabile poterli riportare in natura. Oppure nella maggior parte dei casi, nella maggiore percentuale di quelli che in questo momento vengono al bioparco, sono risultato di sequestri. Animali che sono stati importati illegalmente, di cui purtroppo mancano completamente i dati di origine, e quindi l'ipotizzare un ritorno in natura non è possibile. Tempo fa girava una notizia abbastanza sorprendente che diceva, in forma di interrogativo, qual è il paese nel quale vivono più tigri, e la risposta era gli Stati Uniti, no? Riferendoci appunto al fatto che c'è ormai un'intera generazione di animali che se non stanno negli zone, nei bioparchi, proprio non si sa dove mettere. Tenga presente il leone indiano. Il leone indiano sono rimasti 300 individui soltanto, 100 vivono liberi nella foresta di Gir, 200 in giro per i giardini zoologici. No, una domanda un po' tecnica. Che cosa ne pensa della possibilità di destinare in un paese delle vaste aree, non dico grandi come certi parchi nazionali africani, però delle aree molto più grandi di uno zoo? È una cosa che ha senso oppure no? Questo però, in una forma diversa da come lei mi ha impostato la domanda, è stato la contrapposizione tra un giardino zoologico classico e quello che andava di moda un po' di tempo fa, che si chiamava un zoo safari. Non funzionano per il benessere degli animali, perché in situazioni non naturali e in situazioni in cui qualsiasi evento patogeno bisogna intervenire, lì non si riesce a farlo. Non si riesce a farlo perché non c'è un controllo diretto sugli animali, non c'è un controllo ad esempio sulle diete. I nostri animali hanno una dieta individuo per individuo e devono essere isolati. Ad esempio i nostri orsi, quando devono cenare, vengono divisi uno dall'altro in modo che uno possa controllare che cosa sta mangiando quell'individuo, quanto e che cosa sta mangiando, se lascia qualcosa, e questo è un segno straordinario per capirne la salute. E poi, in un'ottica molto antropocentrica, siamo portati a pensare che più grande lo spazio, più gli animali stanno bene, che non è vero assolutamente. Per tantissime specie animali, in particolare i carnivori, sono degli opportunisti, ed essere opportunista significa cercare di sprecare energie il meno possibile. Non si può generare. Per esempio, gli orsi bianchi hanno un bisogno fisiologico di un grande movimento, quindi considerare gli orsi bianchi di animali dallo zoo è molto, molto, molto criticabile. Sì, indubbiamente bisogna fare differenze, però è vero, come hanno riflettuto molti etologi, sul fatto che anche per gli animali la vita è decisamente dura, andare a caccia è durissima, per cui stanno meglio se si può risparmiare un po' di energie. Indubbiamente sì, ma non bisogna eccedere da questo punto di vista. Infatti c'è tutta quanta una linea di comportamenti negli zoo che rientra sotto il nome di arricchimento ambientale. Gli animali devono faticare per trovarsi da mangiare, perché se no c'è la noia, e la noia porta poi a movimenti stereotipati, porta proprio a problemi di tipo psichico. Quindi si lavora in questo senso, ma da cose banali, ad esempio i primati alle scimmie si nasconde il cibo. I nostri scimpanzé hanno un grande recinto dove la mattina, se vuoi mangiare, a parte hanno la loro dose che tranquillizza il loro stomaco, ma se vuoi quella leccornia te le devi andare a cercare, sotto i sassi, devi infilare il braccio dentro un tronco cavo, oppure gli vengono dati dei tubi di bambù dove con un pezzettino di legno devono tirar fuori questa pappa di banana di cui sono ghiotti, e ci passano le ore. I nostri leopardi hanno degli specchietti che fanno delle macchie di luce sul pavimento, e loro sono estremamente attratti da questa luce, ci giocano in continuazione cercando quasi di bloccarli come farebbe un gatto, e questi li tiene svegli. E i nostri orsi d'estate vengono dati dei blocchi di ghiaccio con dentro un pesce oppure un melone, e loro devono stare lì a faticare per rompere questo blocco di ghiaccio per tirarlo fuori. Sono tutte quante quelle piccole difficoltà, in maniera controllata, che poi troverebbero in natura per andare a procurarsi il cibo. Certo che questi ragazzi della NASA, l'ente spaziale americano, devono stare più attenti, perché poi se nelle trasmissioni di scienza come la nostra ci si impegna tanto a parlare di vita extraterrestre e di questo grande sogno che accompagna le ricerche in questo campo, e poi loro fanno queste cose, beh, non ci siamo. Allora, di che si tratta? La sonda Phoenix, sbarcata su Marte poco più di un anno fa, ha come compito, insieme ad altri obiettivi, anche quello di individuare la presenza di molecole che contengono carbonio e che quindi possono rappresentare una buona traccia per forme di vita, vita passata magari e probabilmente, ma un dato che comunque ci consegnerebbe Marte come un pianeta sul quale organismi viventi un tempo ci furono. I composti organici su un pianeta nel quale non c'è oggi vita diffusa è molto probabile che siano inglobati in altri composti chimici, da questi catturati, insomma. Una classe di composti chimici molto diffusa sul suolo marziano è quella dei perclorati, solo che, ecco, dove non sono andate bene le cose, come svolge le sue ricerche Phoenix, che, ricordiamolo, in questi mesi ha inviato dati sempre negativi, non ha trovato, insomma, composti organici. Allora, la sonda brucia campioni di suolo a temperature abbastanza elevate, in modo da ottenere dei gas che poi possono essere analizzati dalla strumentazione di bordo. Questa è una classica procedura di analisi chimica che si fa ogni giorno migliaia di volte qui sulla Terra, e da questa procedura può ricavare tutti i componenti della miscela. Ma quando i perclorati sono bruciati, la loro combustione è molto potente, anche perché viene rilasciata una gran quantità di ossigeno. È tanto potente da distruggere qualunque possibile molecola organica. In breve, si è andati alla ricerca di noccioline usando uno schiacciasassi. Ma bisogna qui subito dire che queste considerazioni sono contenute in un rapporto prodotto dalla stessa NASA, che infatti sta pensando a una nuova tecnologia per analizzare il suolo dei pianeti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Che la Luna abbia ispirato narratori d'ogni paese noto a tutti, e che la Luna sia una parte della natura studiatissima dalla scienza, anche questo è ben noto. Pietro Greco, un collega giornalista scientifico, ha scritto un libro su questo tema, che però guarda alla realtà italiana. Chiara Albicocco l'ha intervistata, e la lettura che sentirete fra poco è un brano dal Sidereus Nuncius di Galileo, un personaggio che fu certamente un grandissimo scienziato, ma anche un grande scrittore. Bellissima cosa e mirabilmente piacevole vedere il corpo della Luna lontano da noi quasi 60 raggi terrestri, così da vicino come distasse solo due di queste dimensioni. Così che si mostrano il diametro stesso della Luna quasi 30 volte, la sua superficie quasi 900, il volume quasi 27.000 volte maggiori che quando si guardano ad occhio nudo. E quindi, con la certezza della sensata esperienza, chiunque può comprendere che la Luna non è ricoperta da una superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. E queste non furono viste da altri prima di noi. Queste sono le parole di Galileo dedicate alla Luna. 400 anni fa lo scienziato decise di puntare il suo cannocchiale proprio verso di lei. È la prima volta che un uomo riesce ad osservarla nei minimi particolari, e proprio per l'importanza che Galileo conferisce al nostro satellite e perché il 2009 è detto l'anno galileiano, appunto, ho deciso di partire da questa descrizione della Luna, che è contenuta nel nuovo libro di Pietro Greco, L'astro narrante, la Luna nella scienza e nella letteratura italiana, edizioni Springer. Pietro Greco è un giornalista scientifico, divulgatore e direttore del Master in Comunicazione della Scienza alla Sissa di Trieste, e questa sera è qui con noi. Buonasera Greco. Buonasera a voi. Ho scelto bene, ho deciso di partire da Galileo. Cronologicamente non è stato il primo che l'ha descritta e osannata, ma sicuramente è il primo che l'ha osservata nei minimi dettagli, possiamo dire così. Ha scelto benissimo, perché questo brano è parte di un testo, il Sidereus Nuncius, che è stato considerato addirittura un testo spartiacque nella storia della cultura umana, e non da me, ma da Ernest Cassirer, un grande storico delle idee, quindi miglior scelta non poteva esserci. Galileo punta il cannocchiale verso la Luna, vede cose mai viste prima e le descrive in questo libro, che è anche un libro che inaugura un nuovo genere letterario, il rendiconto scientifico, e quindi fa due operazioni in una, dimostrando, fra l'altro, che scienza e letteratura, scienza e più in generale arte, non sono dimensioni diverse della cultura umana, ma sono dimensioni che dialogano fortemente fra loro. Infatti lei nel suo libro, fin dall'incipit, ci avverte che c'è un ménage à trois, una relazione triangolare tra la scienza, la letteratura e la filosofia. Invece di solito siamo un po' abituati a pensare alla letteratura come un'arte, come un'entità davvero distante dal rigore della scienza. Ecco, questo intreccio lo vedeva Italo Calvino, diciamo, quindi non mi assumo il merito, ma il merito è tutto di Italo Calvino, il quale non solo diceva che esiste questo intreccio, ma solo quando c'è questo intreccio tra scienza, filosofia, la letteratura raggiunge la letteratura italiana raggiunge i suoi vertici maggiori. da Dante a Galileo, appunto, da Leopardi io aggiungerei lo stesso Calvino, ma anche Giordano Bruno, piuttosto che Ariosto e tanti altri. Tra l'altro io ho scoperto proprio dal suo libro che Italo Calvino è figlio di scienziati, padre agronomo, madre botanica, zio chimico, fratello geologo, e lui si definisce un po' la pecora nera della famiglia, cioè l'unico letterato della famiglia. Beh, per essere una pecora nera non era male. Infatti. E quindi, però, la Luna è veramente anche la protagonista di uno dei racconti di Italo Calvino, quello di Palomar, La Luna di Pomeriggio. E Italo Calvino dice anche un'altra cosa, dice che quando qualcuno vuole parlare di scienza, la prima cosa che fa è interroga la Luna, chiede alla Luna di parlare. È un po' il senso di questo libro, la Luna come protagonista di questo rapporto, di questa osmosi continua tra scienza e letteratura. E nei racconti di Calvino, nelle cosmicomiche e in altri, la Luna è assolutamente protagonista. Io vorrei ricordare che lui ha scritto anche un libro su Ludovico Ariosto, e Ludovico Ariosto è stato definito un poeta cosmico e lunare proprio da Italo Calvino. Passando da un grande a un altro grande, a me è piaciuto molto il passaggio del suo libro dedicato al sommo poeta, a Dante, che nella sua produzione letteraria cita numerose volte la Luna e anche l'astronomia, sia nella prosa che nella poesia, ma in particolare a me è piaciuto ed è interessante un accostamento che fa nel convivio tra la Luna e la grammatica. Cioè dice che possiedono due proprietà peculiari che solo la Luna e la grammatica hanno. Dico che il cielo della Luna con la grammatica si somiglia, perché ad esso si può comparare per due proprietà di, che se la Luna si guarda bene, due cose si veggono in essa proprie, che non si veggono nell'altre stelle. Luna sì è l'ombra che è in essa, la quale non è altro che rarità del suo corpo, alla quale non possono terminare i raggi del sole e ripercuotersi così come nell'altre parti. L'altra sì è la variazione della sua luminositade, che ora luce da un lato e ora luce da un altro, secondo che lo sole la vede. E queste due proprietà di alla grammatica, che per la sua infinità degli raggi della ragione in essa non si terminano, in parte specialmente degli vocaboli, e luce or di qua or di là, intanto in quanto certi vocaboli, certe declinazioni, certe costruzioni, sono in uso che già non furono, e molte già furono che ancor saranno. Sì, come dice Orazio nel principio della poetria, quando dice «Molti vocaboli rinasceranno che già caddero». Ovviamente ci sono molte interpretazioni. Quella che più mi piace sottolineare è questa visione dinamica della grammatica, che è anche una visione dinamica, se volete, della scienza raccontata attraverso la Luna anche da Dante Alighieri. Anzi, Dante è il primo e il più grande dei poeti italiani che fa parlare la Luna come vuole Calvino, e le fa dire cose intorno alla natura del cielo e non solo alla natura fisica, ma non è poca cosa, perché lui racconta la natura fisica così come veniva immaginata, pensata e riflettuta nel 300, ma racconta anche il cielo come dimensione metafisica. Quindi come i vocaboli, come le parole, insomma, che cambiano il loro significato di giorno in giorno, si evolvono, così anche il cammino della Luna, se vogliamo vederlo, no? La mattina, la sera. Evolve in continuazione nel cielo, la Luna segna il cambiamento, infatti non a caso la Luna è insieme al Sole il grande strumento per misurare il tempo, che gli uomini hanno sempre usato per misurare il tempo. Esistono calendari solari e calendari lunari dall'inizio dei tempi, perché la Luna è in questo suo divenire continuo eppure sempre mutante, diciamo, segna il tempo annuale, il tempo mensile, ma anche il tempo di lungo periodo, di decine, centinaia e migliaia di anni. In questo excursus di grandi letterati italiani, di sicuro non possiamo dimenticare la letteratura di Giacomo Leopardi. Anche lui, diciamo che non è immune al fascino della Luna. Addirittura nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia, che è il pezzo che vorrei farvi sentire in conclusione di questa nostra chiacchierata, ecco, qui la Luna è veramente l'unica compagna di viaggio del pastore. Il rapporto tra Leopardi e la scienza è stato un rapporto che è mutato nel corso del tempo, diciamo, perché la sua visione del mondo è mutata, ma la scienza è sempre stata presente. In questo rapporto tra leopardi e la scienza, la Luna è certamente l'elemento preponderante. E in questa poesia, nella quale lui chiede quale sia il senso del mondo che descrive la scienza, ma non solo, insomma, dell'esistenza, lui chiede proprio alla Luna lume, chiede proprio alla Luna ragione, non la trova, non lo trova questo senso, e quindi è la Luna che accompagna il pastore errante dell'Asia, e il pastore che chiede alla Luna qual è il senso del suo muoversi nel cielo, così come il senso del pastore, qual è il senso della vita del pastore che si muove sulla terra. La Luna è l'interlocutrice preferita dal pastore e da leopardi. Va bene, allora a me non resta che ricordare il titolo del suo libro, L'astro narrante, la Luna nella scienza e nella letteratura italiana, edizioni Springer, e io saluto lei e i nostri ascoltatori con il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, di leopardi. Che fai tu, Luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa Luna? Sorgi la sera? E vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita, la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera. Altro mai non ispera. Concludiamo questa triade di notizie che riguardano lo spazio. Poco fa parlavamo di Luna, ma ancora prima, ve lo ricordate, parlavamo di come non andrebbe cercata la vita nello spazio se la vogliamo trovare. Ebbene, però, nello spazio invece la vita nostra con gli umani, questa sì, c'è sicuramente, e è inutile sorridere, una delle manifestazioni fondamentali della vita è fare la pipì. Allora, la notizia è questa: hanno brindato con l'acqua gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Fin qui niente di strano, a parte la disapprovazione di qualche superstizioso. Ma in realtà, però, la notizia curiosa è che l'acqua che hanno utilizzato per questo cin cin è stata prodotta riciclando la loro pipì. Avete capito bene, ma appunto, come dicevo prima, non c'è da sorridere o storcere il naso. La cosa può sembrare disgustosa, ma il meccanismo che permette di riciclare l'urina e l'umidità atmosferica è stato messo appunto dal Marshall Space Flight Center della NASA e prevede l'impiego di attrezzature molto sofisticate tecnologicamente. L'impianto complesso è un progetto che risale al 1993 e solo nel novembre del 2008 ha visto la sua realizzazione e adesso è stato applicato. Si tratta di una distillazione del vapore compresso. La pipì, l'urina, viene bollita e distillata, cioè trasformata in vapore per rimuovere eventuali materiali solidi, e il liquido ottenuto viene poi decontaminato e purificato per essere potabile al 100%. Sembra un'operazione banale da effettuare sulla Terra, ma non dimenticate che nello spazio si agisce in condizioni di assenza di gravità, cosiddetta assenza. Quindi tutto il procedimento deve avvenire all'interno di una camera di distillazione che riproduce la forza di gravità. Per farvi capire l'importanza di questa sperimentazione, basti pensare che portare un litro d'acqua sulla stazione internazionale costa 5.000 euro, quindi è necessario non sprecare neanche una goccia di questo liquido, di quest'acqua, e sfruttare la risorsa idrica più abbondante presente a bordo della stazione. E qual è la risorsa più abbondante ad un certo punto, dopo un po' magari addirittura di mesi di permanenza nella stazione? E beh, insomma, è una pipì. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordate? A che velocità la testa della mazza da golf di Tiger Woods colpisce quando vuol fare un lancio molto potente la palla da golf? Ebbene, la risposta giusta è 200 km orari. Un buon giocatore di golf si ferma a 160 km orari. Tiger Woods, tra l'altro, usa una tecnica che potrebbe sembrare non efficiente. Infatti, si potrebbe pensare che il sistema migliore sia quello di lasciare andare il braccio come una fionda. Per esempio, nel servizio da tennis, tutti coloro che hanno una battuta molto potente usano il braccio come se fosse una fionda tenuta dalla spalla. Si dà forza, si lascia andare liberamente il braccio. calcio. Invece Tiger Woods, diversamente da altri giocatori, mantiene rigidissimo il polso fino al momento dell'impatto, cosa che gli consente di avere un colpo molto stabile e netto sulla palla, la quale, pensate, parte a una velocità di 288 km orari. Nelle scorse puntate di Möbius avrete sentito dei servizi dedicati a temi che riguardano le neuroscienze e si faceva riferimento a un centro che si occupa appunto di quest'area di ricerca nelle neuroscienze, un centro che si chiama CIMEC e che è a Rovereto, qui in Italia. Quindi questa sera dedichiamo uno spazio particolare a discutere appunto dell'impostazione, delle caratteristiche di questo centro, e lo facciamo con Alfonso Caramazza, che ne è il direttore. Buonasera Caramazza. Buonasera. Allora, già da questo suo buonasera cogliamo un accento non pienamente italiano. Lei, Caramazza, vola, insomma, sta molto sull'oceano tra l'Italia e Boston. Sì, sono il direttore qui del Centro Mente Cervello dell'Università di Trento e sono professore a Harvard University, quindi faccio la spola. Alla spola. E alla Harvard lei dirige il laboratorio di? Il laboratorio di neuropsicologia cognitiva, ma sono anche il direttore dell'iniziativa in inglese Mind, Brain and Behavior Initiative, che vorrebbe raggruppare tutti i ricercatori a Harvard che si interessano di mente e cervello. Dunque, Caramazza, lei insieme ad altri, insomma, avete fondato questo centro in Italia, è un centro con delle caratteristiche estremamente importanti, un centro di frontiera, di punta per quanto riguarda le neuroscienze. Mi pare che il dato primario da cui partire è il fatto che lì avete un po' tutte le tecniche, questo è un fatto decisamente raro, con le quali si lavora sulla mente e sul cervello, no? Abbiamo forse non tutte, perché ce ne sono tantissime, ma abbiamo le più importanti. Le più importanti, quelle sì, che sono usate in particolare con l'uomo. Abbiamo il sistema di risonanza magnetica, elettroencefalografia, stimolazione magnetica transcranica, quindi tutte le procedure che possiamo usare con gli uomini, ma anche con gli animali. Abbiamo un laboratorio di lo studio del cervello degli animali, pulcini, pesciolini, e quindi l'idea è di coprire l'area, diciamo, del cervello partendo dagli animali fino all'uomo. Perché quello che si sta dicendo e state scoprendo un po' voi, insomma, delle neuroscienze oggi è che incrociando tutti questi dati si può dire qualcosa di più certo. Sì, il cervello è una macchina assolutamente complessa, molto complessa, e per capirlo dobbiamo studiarla a più livelli, dal livello più grossolano, diciamo, dell'organizzazione delle varie aree del cervello, fino al livello macroscopico dei singoli neuroni e anche a livelli ancora più di base di tel neurone. Noi vogliamo coprire quella fascia che va dal neurone fino al cervello. Mi pare anche che un altro dato importante è che questo vostro centro ha collegamenti con le strutture sanitarie locali e quindi anche tutto l'aspetto delle patologie è presente nella vostra ricerca, e voi fate anche un lavoro di tipo terapeutico. Il cervello è stato studiato per tantissimi anni, prima soltanto usando il metodo clinico, usando il rapporto tra danni cerebrali e difficoltà cognitive. Sono negli ultimi anni che abbiamo tutti questi macchinari a nostra disposizione. Comunque la componente clinica rimane fondamentale per capire la mente umana, e parte quindi della missione del centro è di studiare sia la dimensione patologica, clinica, diciamo, della mente umana, ma anche la parte normale. Oltre a queste caratteristiche di tipo tecnico, scientifico, insomma, il centro, questo lo dico io, insomma, è un esperimento piuttosto unico in Italia per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-burocratici. Intanto lì lei è riuscito a far arrivare scienziati e ricercatori di primissimo livello da tante varie parti del mondo, anche molti italiani che con posizioni di rilievo in paesi come gli Stati Uniti o la Germania o l'Inghilterra, insomma, sono lì presenti. Però questa vostra struttura ha una duttilità, una libertà che in altri centri di ricerca italiani non ci sono. Com'è che è la miscela? Com'è che funziona? Forse la dimensione più importante per capire la scienza è che la scienza è fondamentalmente un processo democratico, è un processo che parte dalla base. Non puoi imporre le idee, non puoi dire qual è la verità, alla fine saranno i dati stessi che ti diranno qual è la verità. Quindi per organizzare un sistema che funziona devi assolutamente dare spazio e risorse e potere ai giovani. Sono loro che hanno le idee nuove, sono loro che hanno le energie nuove, le idee fresche, e il nostro centro è organizzato in modo da privilegiare i più giovani ricercatori. Infatti all'interno del CIMEC non esistono ranghi di differenza, i professori, i ricercatori sono trattati ugualmente in tutti i sensi. Semmai tendiamo a privilegiare i giovani dando loro fondi di ricerca piuttosto che ai seniors. Ecco però, cara Mazza, di solito questa duttilità non è burocraticamente possibile in Italia. Come avete, qual è stato il vostro rapporto con le varie istituzioni coinvolte? Siamo stati fortunatissimi nell'avere una provincia di Trento che ha avuto un forte interesse a promuovere la crescita della ricerca in quest'area e di avere la Cassa di Risparmio Trento Rovereto che ci ha finanziato per 5 anni per promuovere la crescita del centro. Questa organizzazione ci ha permesso di poter usare fondi di ricerca ganciati dalle solite soliti criteri legati ai sistemi pubblici. Quindi una miscela che mette insieme delle energie private che possono intervenire dove il pubblico non funziona. Bene, io le faccio i migliori auguri per questa ricerca che è partita, il CIMEC che sta per decollare. So che avete già ottenuto dei risultati che stanno creando anche un certo scalpore nel mondo della ricerca e di questi ne parleremo la prossima settimana. Grazie cara Mazza, buon lavoro ancora. Grazie, buonasera. Per migliorare le capacità di produrre innovazione in un paese non è detto che gli investimenti siano l'unica strada. Con la nostra Barbara Gallavotti, ciao Barbara. Ciao Federico. Stiamo per parlare proprio di questo tema e lo facciamo questa sera con un ospite. Ce lo presenti tu Barbara? Sì, è Mario Magaldi, è presidente di un'impresa che si trova a Salerno e che ha una certa storia, almeno 80 anni di storia, e in questo momento ha come suo prodotto principale un sistema che consente di estrarre le ceneri prodotte dalle centrali elettriche senza utilizzare acqua e di trattarle in maniera tale che sia possibile recuperare nell'estrazione un po' di energia, perché le ceneri sono calde, quindi parte di questo calore viene recuperato sotto forma di energia, e poi utilizzare queste ceneri come parte di materiale edilizio. Però non è della loro attività che parleremo oggi, bensì delle loro idee da parte di un osservatorio privilegiato di un'impresa che si trova al sud e che cerca di capire come migliorare l'innovazione. Allora, Mario Magaldi, buonasera. Ah, buonasera. Allora, vogliamo parlare di innovazione nel sud del nostro paese. Beh, insomma, sono due temi, il sud che deve riuscire a decollare e l'innovazione che è un problema generale del nostro paese. Lei in merito a questo ha delle idee precise? Ma io conduco questa azienda da molti anni. Questa è un'azienda che ha trovato il suo motivo di vantaggio competitivo dalla innovazione. E storicamente nella mia famiglia e in questa azienda si sono succedute una serie di innovatori che hanno sviluppato le tecnologie nuove e dei prodotti conseguenti a queste tecnologie. È importante rendersi conto che alcune opportunità per mancanza di una cultura dell'innovazione non vengono colte e questo dovrebbe essere una cosa interessante. Quindi secondo lei su cosa si dovrebbe puntare per incrementare questa cultura dell'innovazione? Ma diciamo che gli investimenti sono sempre necessari per produrre qualunque cosa, ma per produrre con profitto e per acquisire vantaggi competitivi è opportuno che gli investimenti siano collegati a prodotti innovativi. Innovazione non significa solamente prodotto, ma significa anche modo di produrre, significa anche sviluppare delle nuove idee di tipo commerciale, di marketing. Si può fare innovazione nella finanza, si può fare innovazione nel servizio. Ma quello che probabilmente è interessante diffondere è che la cultura dell'innovazione è anche la capacità di rendersi conto del valore della protezione intellettuale. Spesso questa informazione non è così nota come potrebbe apparire, seppure è molto importante per le imprese. Lei sta parlando dei brevetti? Sì, parlo appunto dei brevetti, della brevettazione. Ecco, un fatto è che in Italia non esiste un ufficio brevetti centrale che, così come succede in alcuni paesi del centro Europa, in Germania, in Olanda, dove ci sono delle strutture organizzate per valutare la qualità delle domande di brevetto dal punto di vista della validità industriale, dal punto di vista dell'innovazione. Mm-hmm. Ecco, mi chiedevo se spesso, oltre a rendere disponibili in Italia e soprattutto al sud dei fondi per creare nuove imprese, potrebbe essere vantaggioso creare nel sud dei centri di cultura dell'innovazione, che potrebbero essere sul modello degli uffici europei che sviluppano la produzione intellettuale. Cioè, la sua proposta è di avere un centro responsabilizzato per l'innovazione, però un centro di livello nazionale spostato al sud, in modo che si sviluppi una cultura in tutta quest'area più avanzata, insomma, più attenta proprio agli aspetti culturali dell'innovazione. Sì, ma io direi oltre che nazionali e internazionali. Adesso non c'è più un brevetto, cioè, ci possono naturalmente brevettare per singoli paesi, ma qualunque idea oggi naturalmente è un'idea che va oltre i confini delle nazioni. Quindi in Europa ormai ci sono una serie di accordi fra i vari paesi, per cui con un'unica operazione di verifica della domanda di brevetto si può ottenere il rilascio di un certificato di protezione intellettuale che è valido per molti paesi. Quindi, scusi, lei pensa che comunque una sorta di ufficio brevetti, chiedendo delle competenze specializzate, attirerebbe intorno a sé un nucleo di persone che poi costituiscono una specie di terreno fertile per far germogliare nuove idee di innovazione? Sì, esattamente, lei ha detto molto bene, è proprio questo. La brevettazione è necessaria su tutte le attività, su tutte le varie tecnologie, e quindi è necessario concentrare gli uffici brevetti una serie di culture e una serie di scienze e quindi una serie di esperti che studiano in continuazione tutto quello che si fa di nuovo nel mondo. Tutto questo è un forte bagaglio culturale. Beh, questa idea però, Magaldi, è un'idea che va portata ai decisori politici. Ah beh, certamente, credo che sia veramente una eccellente idea. Sì, assolutamente. Grazie Magaldi e buon lavoro. Vi ringrazio molto, grazie per l'attenzione. Abbiamo finito per questa puntata. Vi ricordo, dal 4 al 7 giugno a Varese, Storie di Scienza, e poi per gli amanti della cucina scientifica il blog che abbiamo aperto, gestito da Davide Cassi, fisico dell'Università di Parma. Trovate tutto sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Buona serata a tutti e tutte, e ci sentiamo la prossima settimana.